magnesi basta. La pasta me la mangio a colazione con la panna. Guarda quanto peso, la bilancia scappa. Forse il mio di dietro è un pan di Spagna o una lasagna. Ogni vestito hip hop che possiedo mi va stretto. Sembro Santa Claus quando mangiando me lo metto. Cucino un cereale lungo come l'equatore e con lo yogurt faccio l'amore col sapore. Sono così buono che mi mangio anche da solo. Il pranzo è servito e buon appetito. Voglio il popcorn, popcorn, popcorn. Voglio il popcorn, popcorn, popcorn. Amo il rock e le patate, il merengue e le meringhe, meglio ancora i popcorn. Amo il funky come i funghi, il blues come la mus, ma soprattutto i popcorn. Amo la disco e la condisco, i reggae come i manghi, meglio ancora i popcorn. Amo lo ska come la pesca, il liscio come l'olio, soprattutto i popcorn. Bistecche, acciughine, maionese, patatine, costolette, risotto alla milanese, polpette, timballi di verdure, salamelle, sformati, biscotti, precotti, basta! Invitami all'Ikea quando scegli la cucina, ma non è una buona idea se mi porto la farina. Potrei impanare i mobili e mangiarli con i tarli, cuocio dentro al forno lievitando coi taralli. Per noi italiani la cosa più bella resta il cibo, nel tritacarnone come fracchia faccio un giro. Mi vuoi al naturale o preferisci abbrustolito? Lascio a te la scelta, dai, accetta questo invito. Voglio il popcorn, popcorn, popcorn. Voglio il popcorn, popcorn, popcorn. Amo il rock e le patate, il merengue e le meringhe, meglio ancora i popcorn. Amo il funky come i funghi, il blues come la mus, ma soprattutto i popcorn. Amo la disco e la condisco, i reggae con i manghi, meglio ancora i popcorn. Amo lo ska come la pesca, il liscio come l'olio, soprattutto i popcorn. Sono un mortadellone, ehi, ma dov'è la mia porchetta? Eccomi mortadellone, abbiamo tante forme colorate, sì. Come il marzapane. Quali sono le tue fantasie proibite? Cosa vuoi? Sei bollente come pane da sfornare. Dai, vieni qua. Cucinami nel letto come solo tu sai fare. Fragolone mio. Io sono il tuo affogato, il cioccolato, il tuo zucchero filato. Da quando ti ho incontrato, io sono il tuo babà. Tu sei la mia metà, ti prego vieni qua. Ci sei? Sì, arrivo. Sono saporita come panna cotta. La tua ciambella. Gustiamoci, sì. Come gli abbracci del mulino bianco. No. Cosa? Non dirmi che sei stanco. Soprattutto i popcorn. Amo la disco e la condisco, i reggae con i manghi, meglio con i popcorn. Amo lo ska come la pesca, il liscio come l'olio, soprattutto i popcorn. Mi passi la maionese, per favore? È obbligo, è finita. No, come è finita?